Sì, anche voi avete i capelli turchini, come lei. Oh, fatina mia, oh, fatina mia, ditemi che siete voi. Proprio voi? Non mi fate più piangere. Se sapeste, ho pianto tanto, ho patito tanto. E nel dir così Pinocchio piangeva dirottamente e gettandosi ginocchioni per terra abbracciava i ginocchi di quella donnina misteriosa. Capitolo 25. Pinocchio promette alla fata di essere buono e di studiare perché è stufo di fare il burattino e vuol diventare un bravo ragazzo. In sulle prime la buona donnina cominciò col dire che lei non era la piccola fata dai capelli turchini, ma poi, vedendosi oramai scoperta e non volendo mandare più in lungo la commedia, finì col farsi riconoscere e disse a Pinocchio: «Birba d'un burattino! Come mai ti sei accorto che ero io? Gli è il gran bene che vi voglio quello che me l'ha detto. Ti ricordi? Mi lasciasti bambina e ora mi ritrovi donna, tanto donna che potrei quasi farti da mamma. L'ho caro di molto perché così invece di sorellina vi chiamerò la mia mamma. Gli è tanto tempo che mi struggo di avere una mamma come tutti gli altri ragazzi. Ma come avete fatto a crescere così presto? È un segreto. Insegnatemelo, vorrei crescere un poco anch'io. Non lo vedete, sono sempre rimasto alto come un soldo di cacio. Ma tu non puoi crescere, replicò la fata. Perché? Perché i burattini non crescono mai. Nascono burattini, vivono burattini e muoiono burattini. Oh, sono stufo di far sempre il burattino, gridò Pinocchio dandosi uno scappellotto. Sarebbe ora che diventassi anch'io un uomo come tutti gli altri. E lo diventerai se saprai meritartelo. Davvero? E cosa posso fare per meritarmelo? Una cosa facilissima: avvezzarti a essere un ragazzino per bene. Oh, che forse non sono? Tutt'altro. I ragazzi per bene sono ubbidienti. E tu invece? E io non ubbidisco mai. I ragazzi per bene prendono amore allo studio e al lavoro. E tu? E io invece faccio il bighellone e il vagabondo tutto l'anno. I ragazzi per bene dicono sempre la verità e io sempre le bugie. I ragazzi per bene vanno volentieri alla scuola. E a me la scuola mi fa venire i dolori di corpo. Ma da oggi in poi voglio mutar vita. Me lo prometti? Lo prometto, voglio diventare un ragazzino per bene anch'io e voglio essere la consolazione del mio babbo. Dove sarà il mio povero babbo a quest'ora? Non lo so. Avrò mai la fortuna di poterlo rivedere e abbracciare? Credo di sì, anzi, ne sono sicura. A questa risposta fu tale e tanta la contentezza di Pinocchio che prese le mani alla fata e cominciò a baciargliele con tanta foga che pareva quasi fuori di sé. Poi, alzando il viso e guardandola amorosamente, le domandò: «Dimmi, mammina, dunque, non è vero che tu sei morta?» «Par di no», rispose sorridendo la fata. «Se tu sapessi che dolore e che serratura alla gola che provai quando lessi qui giace, lo so ed è per questo che ti ho perdonato. La sincerità del tuo dolore mi fece conoscere che tu avevi il cuore buono. E dai ragazzi buoni di cuore, anche se sono un po' monelli, avvezzati male, c'è sempre da sperar qualcosa. Ossia, c'è sempre da sperare che rientrino sulla vera strada. Ecco perché son venuta a cercarti fin qui. Io sarò la tua mamma». «Oh, che bella cosa!» gridò Pinocchio saltando dall'allegrezza. «Tu mi ubbidirai e farai sempre quello che ti dirò io». «Volentieri, volentieri, volentieri!» «Fin da domani», soggiunse la fata, «tu comincerai con l'andare a scuola». Pinocchio diventò subito un po' meno allegro. «Poi sceglierai a tuo piacere un'arte o un mestiere». Pinocchio diventò serio. «Che cosa brontoli fra i denti?» domandò la fata con accento risentito.

Con una lezione di più o con una di meno si rimane sempre gli stessi somari. E il maestro che dirà? Il maestro si lascia dire. È pagato apposta per brontolare tutto il giorno. E la mia mamma? Le mamme non sanno mai nulla, risposero quei malanni. Sapete cosa farò? Disse Pinocchio. Il pesce cane voglio vederlo per certe mie ragioni, ma anderò a vederlo dopo la scuola. Povero Giucco, ribatté uno del branco. Che credi? Che un pesce di quella grossezza voglia star lì a fare il comodo tuo? Appena s'è annoiato, piglia il dirizzone per un'altra parte e allora chi s'è visto, s'è visto. Quanto tempo ci vuole di qui alla spiaggia? Domandò il burattino. E fra un'ora siamo andati e tornati. Dunque, via! E chi più corre è più bravo! Gridò Pinocchio. Dato così il segnale della partenza, quel branco di monelli, coi loro libri e i loro quaderni sotto il braccio, si mossero a correre attraverso i campi. E Pinocchio era sempre avanti a tutti, pareva che avesse le ali ai piedi. Di tanto in tanto, voltandosi indietro, canzonava i suoi compagni rimasti a una bella distanza. E nel vederli ansanti, trafelati, polverosi e con tanto di lingua fuori, se la rideva proprio di cuore. Lo sciagurato, in quel momento, non sapeva a quali paure e a quali orribili disgrazie andava incontro. Capitolo 27. Gran combattimento fra Pinocchio e i suoi compagni, uno dei quali, essendo rimasto ferito, Pinocchio viene arrestato dai carabinieri. Giunto che fu alla spiaggia, Pinocchio dette subito una grande occhiata sul mare, ma non vide nessun pesce cane. Il mare era tutto liscio come un gran cristallo da specchio. «Oh, e il pesce cane dov'è?» domandò voltandosi ai compagni. «Sarà andato a far colazione!» rispose uno di loro ridendo. «O si sarà buttato sul letto per fare un sonnellino!» soggiunse un altro ridendo più forte che mai. Da quelle risposte sconclusionate, da quelle risatacce grulle, Pinocchio capì che i suoi compagni gli avevano fatto una brutta cellia, dandogli ad intendere una cosa che non era vera, e pigliandosela male disse loro con voce di bizza: «E ora, che sugo ci avete trovato a darmi ad intendere la storiella del pesce cane?» «Il sugo c'è di sicuro», risposero in coro quei monelli. «E sarebbe?» «Quello di farti perdere la scuola e di farti venire con noi. Ma non ti vergogna mostrarti tutti i giorni così preciso e così diligente alla lezione? Non ti vergogna studiar tanto come fai?» «E se io studio, cosa ve ne importa?» «A noi ce ne importa moltissimo, perché ci costringe a fare una brutta figura col maestro.» «Perché?» «Perché gli scolari che studiano fanno sempre scomparire quelli come noi che non hanno voglia di studiare. E noi non vogliamo scomparire. Anche noi abbiamo il nostro amor proprio.» «E allora cosa devo fare per contentarvi?» «Devi prendere a noia anche tu la scuola, la lezione e il maestro, che sono i nostri tre grandi nemici.» «E se io volessi seguitare a studiare?» «Noi non ti guarderemo più in faccia e alla prima occasione ce la pagherai.» «In verità mi fate quasi ridere», disse il burattino con una scrollatina di capo. «Oh, Pinocchio!» gridò allora il più grande di quei ragazzi andandogli sul viso. «Non venir qui a fare lo smargiasso e non venir qui a far tanto il galletto. Perché se tu non hai paura di noi, noi non abbiamo paura di te. Ricordati che tu sei solo e noi siamo sette.» «Sette come i peccati mortali», disse Pinocchio con una gran risata. «Avete sentito? Ci ha insultati tutti, ci ha chiamato col nome di peccati mortali. Pinocchio, chiedici scusa dell'offesa, se no guai a te.» «Cucù!» fece il burattino battendosi con l'indice sulla punta del naso in segno di canzonatura. «Pinocchio la finisce male. Cucù! Ne toccherai quanto un somaro. Cucù!» Ritornerai a casa col naso rotto. Cucù, cucù! Ora il cucù te lo darò io, gridò il più ardito di quei monelli. Prendi intanto quest'acconto e serbalo per la cena di stasera. E nel dir così gli appiccicò un pugno nel capo.